Letture di Radio 24. La piccola signora della grande casa è l'ultimo romanzo pubblicato in vita da Jack London nel 1916. È la storia di un triangolo amoroso tra Dick Forrest, proprietario di un ranch, sua moglie Paula e l'amico Evan Graham. L'attrazione per l'affascinante signora nasce quando Graham viene invitato alla grande casa, centro vitale del ranch dei Forrest. Quella sera Evan Graham indugiò a lungo prima di mettersi a letto. Era insolitamente scosso dalle emozioni causate dalla grande casa e dalla sua padrona. Appena si mise a sedere sulla sponda del letto, mezzo spogliato, a fumare la sua pipa, ecco riapparire nella memoria le ultime 12 ore. Come l'aveva vista, viva e reale, in tutti i suoi vari aspetti e atteggiamenti. Come gli aveva parlato di musica e aveva suonato per la sua gioia. Come aveva eccitato i saggi a discutere e lo aveva piantato per andarsene a preparare i tavoli da gioco per gli ospiti. Come si era sdraiata sulla grande poltrona, bambina fra le bambine. Come, senza timore, aveva cavalcato lo stallone nella piscina. E infine come, poche ore più tardi, era entrata nella sala da pranzo a salutare i suoi numerosi ospiti come una creatura da sogno, perfetta nel corpo e nell'acconciatura. Infine spense la luce e si trovò tra le fresche lenzuola, sveglio nelle tenebre. Di nuovo udì Paula Forrest ridere e di nuovo la immaginò come argento, acciaio e forza, e ancora una volta vide nelle tenebre l'inimitabile movimento delle ginocchia sotto la gonna. La visione abbagliante diveniva ormai una pena per lui, perché gli era impossibile scacciarla dalla mente. Tornava sempre davanti ai suoi occhi come immagine splendente di luci e di colori, puramente soggettiva, ma che continuamente si imponeva con un'apparenza di realtà. Infine si addormentò, pensando a quel meraviglioso processo di evoluzione mediante il quale erano usciti, dal fango e dalla polvere primordiali, il corpo e lo spirito di una creatura così splendida e superba. La mattina seguente, Graham apprese altre abitudini della grande casa. Giocando al biliardo con Bert, Graham venne a sapere che Dick non si faceva mai vedere per colazione. Lavorava a letto già dalle prime ore del mattino, prendeva il caffè alle 6 e non vedeva i suoi ospiti prima del pranzo delle 12:30, eccetto occasioni particolari. Quanto a Paula Forrest, Bert gli spiegò che era una dormigliona che si alzava molto tardi. Soltanto nella rara occasione di qualche gita si faceva vedere prima delle 12:30 e talvolta non compariva neppure a quell'ora. «Vedete, è sana e forte. È tutto ciò che volete», spiegò Bert, «ma è nata con l'insonnia. Non riesce a dormire. Un bambino dorme più di lei. Eppure non ne risente, perché possiede una volontà che la rende padrona dei suoi nervi». I suoi nervi sono tesi all'estremo, ma non cede all'irritazione quando non può dormire. Si sforza con tutta la volontà di riposare e alla fine riposa. Le notti insonni le chiama le sue notti bianche. A volte si addormenta allo spuntar del giorno, alle 9 o alle 10 del mattino, e allora dorme per il resto delle 24 ore. Io non ho mai visto nessuno capace di sottrarsi al suo fascino. Uomini, donne, servi, persone di ogni età e di ogni ceto. Tutti cedono allo stesso modo, quando lei vuole. Sono tutti uguali per lei. Io non so come sia, forse a causa di una luce particolare degli occhi, o di una speciale espressione delle labbra, oppure, io non so che cosa. Insomma, lei ottiene sempre quello che vuole. Nessuno può negarle nulla. Ha una sua maniera speciale di fare, disse Graham. Esatto, esclamò Bert, illuminandosi in volto. È proprio una maniera speciale. Riesce a dominare chi vuole. Forse ha imparato a essere così calma a forza di dominare se stessa nelle notti di insonnia passate senza un lamento, senza un'irritazione. Dice che Paola sarebbe capace di dormire come un bambino se la città dovesse essere bombardata o se la nave che la portasse fosse in balia delle onde. È una donna meravigliosa, senza dubbio. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dal libro di Jack London, La piccola signora della grande casa. Casa editrice Fermento, 352 pagine, 15 euro. Tutti noi ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra. È evidente che la gente è poco seria quando parla di sinistra o destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? In Francia esce un libro che ripropone l'antica moda di dividere tutto tra destra e sinistra. Ma il gioco ormai non funziona più. Ai tempi del «tutto è politica», slogan non si sa se più stupido o ricattatorio, era naturale chiedersi davanti a qualunque cosa se fosse di destra o di sinistra. Film, canzoni, mode, abitudini di vita, nulla scampava al setaccio dell'ideologia. Prima delle ironie di Gaber, l'inventario più noto e citato fino allo sfinimento era «Maledetti vi amerò» di Marco Tullio Giordana, dove si diceva che il tè, il riso integrale, il marocco, la doccia, i preliminari erotici sono di sinistra. Di destra sono il caffè, la vasca da bagno, Venezia, Praga e la penetrazione. Due giornalisti francesi, Isabelle Fringuet-Paturle e Jérémy Patinier, provano oggi a riproporre lo stesso gioco di società, ma il loro libro «Tintin est-il de gauche, Asterix est-il de droite» è la dimostrazione che il gioco non funziona più. Tintin ha fama di essere di destra, ma è solo un trasformista che nelle sue avventure è stato di volta in volta colonialista, anticolonialista, legittimista, anticomunista, democratico, difensore dei popoli sottomessi alla dittatura, un po' cattolico e paternalista. Asterix, impegnato a respingere i romani invasori, potrebbe sembrare di sinistra, ma i galli del fumetto sono piuttosto xenofobi e Michel Serres arrivò a definirli mezzi nazisti. Nazista, per intero, è il modello di società dei Puffi, cultori della tradizione, con il loro villaggio di funghi sperduti nella foresta nera. SpongeBob è un militante ecologista contro il riscaldamento globale. Quasi inclassificabili le serie TV, da Dexter a Breaking Bad. Lady Gaga è a destra nello stile, a sinistra nelle idee. Facebook, che invita a innalzare un altare al proprio ego, è di destra. Il più schietto e cooperativo Twitter, di sinistra. E poi tocca a IKEA, alle Infradito, alle riviste femminili, alla sfinge ideologica della Apple. Ma il gioco non funziona più. L'orizzonte ideologico si è fatto troppo nebbioso e un giudizio universale richiede cieli limpidi. E soprattutto, il gioco era divertente quando non era un gioco, quando si prendeva tremendamente sul serio. Provate a riaprire oggi «Come leggere Paperino» di Ariel Dorfman e Armand Matelard, pubblicato nel Cile di Allende, un'analisi marxista di Disney che negli anni 70 fu un piccolo bestseller rivoluzionario. Paperino al potere è la promozione del sottosviluppo e delle lacerazioni quotidiane dell'uomo del terzo mondo, ridotto a oggetto di continuo sfruttamento nel regno utopico della libertà borghese. Nessun umorista dei nostri tempi saprebbe fare di meglio. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Guido Vitiello, Ideologi a fumetti, dal numero 40, aprile 2012, del mensile Il.